ai destinatari. All'imperatore Tito Elio Adriano Antonino Pio, Cesare Augusto e a Verissimo, il figlio filosofo, e a Lucio Filosofo, figlio naturale di Cesare e figlio adottivo di Pio, amante della cultura, al Sacro Senato e a tutto il popolo dei Romani. Io, Giustino, figlio di Prisco, che fu figlio di Bacco, di Flavia Neapolis in Siria di Palestina. Io, uno di loro, a favore degli uomini di ogni razza ingiustamente odiati e perseguitati, ho scritto questo discorso e questa supplica. La ragione esige che coloro che sono pii e filosofi secondo verità stimino e amino solo ciò che è vero, rifiutando di seguire le opinioni degli antichi qualora siano spregevoli. Un saggio modo di ragionare non solo esige che non si seguano coloro che agiscono o emettono sentenze ingiustamente, ma è necessario che colui che ama la verità scelga a ogni costo e a prezzo della sua stessa vita, anche se minacciato di morte, di dire e compiere cose giuste. Ovunque sentite dire che siete ritenuti pii, filosofi e custodi della giustizia e amanti della cultura, sarà dimostrato se sarete veramente tali. Ci siamo rivolti a voi non per adularvi con queste parole, né per chiedervi favori con il parlare, ma per domandarvi di formulare un giudizio secondo un ragionamento scrupoloso e analitico, senza essere condizionati dal pregiudizio, né dal desiderio di piacere a uomini superstiziosi, oppure da un folle impulso e da cattive dicerie diffuse da tempo, finendo col condannare voi stessi. Del resto, noi riteniamo di non dover soffrire nulla a causa di nessuno, a meno che non siamo accusati come operatori di iniquità, oppure riconosciuti come malvagi. Voi potete ucciderci, danneggiarci, no di certo. Si esaminino le accuse. Affinché qualcuno non creda che questo sia un discorso insensato o temerario, chiediamo che siano esaminate le accuse contro di noi e, se appariranno reali, si punisca allora come è giusto punire chi è colto in flagrante. Ma se nessuno ha nulla da accusare, un ragionamento secondo verità non permette che a causa di una cattiva diceria siate ingiusti contro uomini innocenti e soprattutto contro voi stessi, poiché ritenete bene agire non secondo giudizio, ma secondo l'impulso. Ogni uomo saggio giudicherà buono e giusto soltanto quel metodo secondo il quale i sudditi possano presentare un rendiconto irreprensibile della loro vita e del loro pensiero. Parimenti, a loro volta, i sovrani pronuncino un giudizio ispirati non dalla violenza né dalla tirannide, ma dalla pietà e dalla filosofia. Così, infatti, potrebbero trarre vantaggio sia coloro che governano sia i sudditi. Un antico da qualche parte ha detto: se i capi e i sudditi non sono filosofi, neppure le città possono essere felici. Nostro compito quindi è sottoporre all'esame di tutti la nostra vita e il nostro insegnamento, affinché, a causa di coloro che ritengono di dover ignorare la nostra condotta, non meritiamo noi stessi la pena per quelle colpe di cui essi sono colpevoli a motivo della loro cecità. È vostro dovere, come fa vedere la ragione, che ascoltandoci vi mostriate buoni giudici. E quando avrete appreso, se non agirete secondo giustizia, tutto il resto sarà senza giustificazione presso Dio. Il nome non è motivo di condanna. Non si emette un giudizio buono o cattivo in base all'appellativo di un nome, indipendentemente dalle azioni subordinate al nome. Di fatto, quanto al nostro nome posto sotto accusa, cristianoi, siamo eccellenti, crestotai. Ma poiché non riteniamo giusto chiedere di essere assolti a causa del nome, qualora fossimo accusati come malvagi, viceversa, se non siamo colpevoli di niente, né a causa dell'appellativo né a causa del comportamento, è vostro dovere lottare per non essere debitori nei confronti della giustizia, punendo ingiustamente coloro che sono senza colpa. Né sarebbe ragionevole se dal nome nascesse un'approvazione o un castigo, a meno che non si possa dimostrare qualcosa di valido o di spregevole in base alle azioni. Presso di voi, infatti, non punite nessuno di coloro che sono imputati prima che sia dimostrato colpevole. Nel caso nostro, prendete il nome come elemento di accusa, mentre proprio per il nome dovreste punire specialmente gli accusatori. Siamo accusati, infatti, di essere cristiani, cristianoi, ma non è giusto odiare ciò che è buono, creston. Anzi, se uno di quelli che sono accusati nega, dicendo di non essere cristiano, voi lo liberate, poiché non potete dimostrarlo colpevole di niente. Se invece in qualche modo confessa di esserlo, voi lo condannate a causa della confessione. Eppure è necessario esaminare la vita di colui che confessa e di colui che nega, affinché ognuno mostri attraverso le azioni quello che è. Come alcuni, avendo imparato da Cristo Maestro a non negare, sono d'esempio una volta che vengono interrogati, allo stesso modo coloro che vivono male ugualmente offrono occasione a coloro che hanno convinzioni diverse di accusare tutti i cristiani di impietà e di ingiustizia. Né è giusto che questo si faccia. Di fatto aderiscono al nome e al comportamento filosofico alcuni che non compiono nulla degno della professione. Sapete bene che gli antichi, anche se insegnarono e decretarono teorie opposte, furono denominati con l'unico nome di filosofi. Alcuni di loro hanno insegnato l'ateismo e coloro che sono poeti cantano Zeus licenzioso insieme ai suoi figli. E quanti seguono i loro insegnamenti non sono da voi perseguiti, anzi offrite premi e onori a coloro che con bella voce oltraggiano gli dèi. Istigazione demoniaca. Che significa tutto questo? Contro di noi, che abbiamo promesso di non commettere ingiustizia e di non coltivare tale ateismo, voi non state istruendo processi, ma, spinti da una folle passione e dalla sferza dei demoni malvagi, ingiustamente infliggete pene senza riflettere. Verrà detto ciò che è vero. Anticamente i demoni malvagi, facendo apparizioni, commisero adulterio con le donne, corruppero i fanciulli e mostrarono agli uomini orrori tali che essi erano sbigottiti e non giudicavano razionalmente i fatti che accadevano, ma assaliti dalla paura, non riconoscendo che erano demoni malvagi, li chiamavano dei e designavano ognuno con quel nome che ciascuno dei demoni avevano stabilito per sé. Quando poi Socrate, secondo un ragionamento basato sulla verità e sull'investigazione, tentò di denunciare apertamente questi fatti e di allontanare gli uomini dai demoni, gli stessi demoni, grazie all'opera di uomini che si compiacevano della malvagità, riuscirono a condannarlo a morte come un ateo o un empio, dicendo che introduceva nuove divinità. Ugualmente, contro di noi, stanno agendo per lo stesso fine. Ma non solo presso i greci furono denunciati questi fatti per bocca di Socrate, ma anche tra gli stessi barbari, dal verbo logos stesso, che assunse forma umana, che divenne uomo e che prese il nome di Gesù Cristo. Noi che crediamo in Lui affermiamo che i demoni che compiono queste cose non solo non sono dei, ma demoni perversi ed empi e non compiono azioni uguali a quelle degli uomini che amano la virtù. Siamo giudicati atei. Per questo motivo siamo chiamati atei e noi confessiamo di essere atei verso i cosiddetti dei, ma non verso Dio verissimo, non contaminato dalla malvagità e padre della giustizia, della saggezza e delle altre virtù. Veneriamo e adoriamo Lui e il Figlio che da Lui è venuto e che ci ha insegnato tutto ciò, e l'esercito degli altri angeli buoni che lo seguono e che a Lui si assimilano, e infine lo spirito profetico, rendendo onore secondo ragione nella verità. E a tutti coloro che vogliono imparare, trasmettiamo l'insegnamento senza limitazione di sorta, così come ci è stato insegnato. Eppure, potrebbe dire qualcuno, alcuni già arrestati sono dimostrati colpevoli. Infatti, quando indagate singolarmente sulla vita di coloro che sono accusati, spesso molti ne condannate, ma non a causa di coloro che furono già prima accusati. dobbiamo convenire che vi è un'opinione comune, come presso i greci, coloro che insegnavano ciò che era loro gradito erano designati con l'unico nome di filosofi, nonostante le opposte dottrine. Ugualmente anche presso i barbari vi è un nome unico attribuito a coloro che sono stati sapienti o che come tali hanno insegnato. Tutti sono chiamati cristiani. Per questo motivo chiediamo a voi di giudicare le azioni di tutti coloro che sono accusati, affinché l'accusato sia punito come fuorilegge, ma non come cristiano. Se invece qualcuno appare innocente, venga liberato come cristiano che non ha commesso nulla contro la giustizia. Non chiederemo a voi di punire coloro che hanno accusato. Essi infatti sono a sufficienza puniti dalla propria malvagità e dall'ignoranza del bene. Rifiutiamo la menzogna e aspiriamo alla vita eterna. Riflettete poi sul fatto che diciamo queste cose anche a vantaggio vostro, poiché dipende da noi, una volta interrogati, negare. Ma non vogliamo vivere da menzogneri. Noi che aspiriamo a una vita eterna e pura, pretendiamo di vivere insieme a Dio Padre e Creatore di tutte le cose, e desideriamo perciò confessare la fede nella convinzione e nella certezza che potranno conseguire ciò coloro che hanno creduto in Dio attraverso le opere, poiché lo hanno seguito bramando di vivere vicino a Lui, dove il male non oppone resistenza. In breve, in queste cose abbiamo speranza, da Cristo le abbiamo imparate e queste insegniamo. Anche Platone affermò che Radamante e Minosse puniranno gli ingiusti che giungeranno davanti a loro. Noi diciamo che si verificherà lo stesso giudizio, ma da parte di Cristo. I loro corpi, insieme alle loro anime, saranno puniti con una pena eterna e non per un periodo di 1000 anni soltanto come egli affermava. Se poi qualcuno sostiene che ciò è incredibile o impossibile, l'errore riguarda noi e non altri, fin quando nei fatti non saremo riconosciuti colpevoli di qualcosa. Rinneghiamo gli idoli. Non onoriamo però con molti sacrifici e corone di fiori neppure coloro che gli uomini hanno chiamato dei, foggiandoli con le proprie mani e collocandoli nei templi. Sappiamo infatti che sono esseri inanimati e senza vita, senza forma di Dio, giacché riteniamo che Dio non abbia una forma del genere, quella cioè che alcuni dicono essere stata riprodotta per il culto. Piuttosto essi hanno i nomi e le forme di quei terribili demoni apparsi. Perché non dobbiamo dire a voi, che già lo sapete, che li hanno costruiti gli artigiani levigando il legno, tagliando, fondendo e incidendo? Spesso, dopo aver trasformato con arte il modello di un recipiente senza valore e dopo aver dato una forma, li chiamano dei. E questo non solo lo riteniamo irrazionale, ma nei confronti di Dio che possiede gloria e forma ineffabili è anche oltraggioso, perché il suo nome è dato a cose deperibili e bisognose di restauro. Sapete bene che coloro che fabbricano questi oggetti sono dissoluti e commettono ogni tipo di nefandezza, senza bisogno di elencarle, e portano alla corruzione anche le fanciulle che lavorano con loro. Quale stoltezza! Scegliere uomini dissoluti per modellare e ricomporre dei, affinché sia reso loro il culto, e stabilire che costoro siano custodi dei templi dove gli dei vengono collocati, senza considerare che è scellerato anche pensare o affermare che i guardiani degli dei siano gli uomini. Dio non ha bisogno di offerte materiali. Aggiungiamo piuttosto che Dio non ha bisogno dell'offerta materiale che viene dagli uomini, dal momento che constatiamo che Lui stesso dona ogni cosa. Ci è stato insegnato, ne siamo persuasi e ne siamo convinti, che a Lui sono accetti soltanto coloro che imitano quelle virtù che gli sono proprie, la saggezza, la giustizia e l'amore per gli uomini, e ogni altra cosa che si addice a Dio, che non può essere definito con nessuno dei nomi a Lui assegnati. Ci è stato insegnato che al principio egli stesso, essendo buono, creò tutte le cose dalla materia informe a beneficio degli uomini. Abbiamo appreso che se questi con le loro azioni si mostreranno degni della sua volontà, saranno ritenuti degni di ritornare a lui e regnare insieme, immortali e liberi da ogni sofferenza. Come infatti in principio creò esseri che non esistevano, allo stesso modo noi pensiamo che quanti hanno scelto ciò che a lui è gradito, per il fatto stesso di averlo scelto, siano ritenuti degni di immortalità e di una stessa medesima dimora. Essere chiamati all'esistenza non era il nostro potere. Egli ci persuade a seguire, per mezzo della capacità razionale che ci ha donato, ciò che a lui è gradito e ci conduce alla fede. Riteniamo che è a vantaggio di ogni uomo la possibilità di imparare queste cose, ma anche di essere esortato ad esse. Ciò che non poterono compiere le leggi degli uomini, il Verbo che è divino lo ha compiuto. Purtroppo però i demoni perversi sparsero molte accuse false ed empie, avendo come alleata quella passione che è in ognuno di noi, malvagia in tutto e per tutto e scaltra per sua natura. Di queste accuse nessuna riguarda noi.